Yeah. Sì. Checco 64, ancora una volta. Non c'è più nulla da dire. Ormai non sento più niente. Volume 1 2009. Devi sapere che il mio presidente è soltanto uno stronzo che guida al volante, impasticato e pure sbronzo. Conduce un paese seguendo punti alla cieca. Lui si salva sempre il culo mentre la gente impreca. Sì, in Italia c'è uno stronzo di presidente. Si riempie di parole la bocca e poi il mondo non lo sente. Tra ville e macchine guarda che bella vita. Lui manca a farla apposta, tradisce la sua bella figlia. Almeno per lui il tempo non può non passare. Tra uno svago e l'altro neanche lui sa che cosa fare. E tra tutto quanto una cosa gli passa per la mente: il suo piccolo paese per il quale non fa niente. Tutte queste pagliacciate una dopo l'altra, tutte queste mosse politiche che sempre più scaltra, di sopprimere tutti con la forza è sbagliato. L'idea di movimentare il mondo in privato è solo un leccaculo che non ha mai contato. Alleato anti-italiano e americano schierato, dove ha potuto prendere, ha sempre preso, e nonostante le rapine è rimasto sempre illeso. La gente si fida di uno stronzo malintenzionato che al minimo sgarro è stato già riaccettato. Ora sì che so che l'Italia è un paese ladro, anche se appare perfetto come appare un quadro. Ma il mio presidente è soltanto uno stronzo che guida al volante impasticato e anche sbronzo. Conduce un paese seguendo dei punti alla cieca. Lui che si salva il culo mentre la sua gente impreca. Oh.